Degli Stati Uniti, confesso, non ho alcuna fiducia. Da bravi ragazzi intrepidi e un po' scafati, si sono gettati nell'avventura della guerra, ma già i primi colpi sanguinano abbondantemente. E si sono rivelati subito così incapaci di fare sul serio. La guerra è un gioco crudele, a cui non sembrano preparati quei giovanottoni esuberanti e felici, sfavillanti di buon umore. Ma chissà poi se i veri americani assomigliano agli attori di Hollywood. Forse anche loro sono capaci di bramosia e di violenza. A ogni modo, ripeto, ho poca fiducia. È la loro prima guerra vera, e poi non si capisce perché mai la debbano fare. Per l'imperialismo mondiale? Hanno troppo spirito per prenderlo sul serio. Per la difesa del Pacifico? Ma in realtà sono troppo distanti dal Giappone per sentirsi veramente minacciati. E allora perché? Per cavalleria verso l'Inghilterra? Non mi sembrano così romantici. Forse per senso d'onore. È umiliante stare inerti mentre tutto il mondo si dilania. È assurdo avere un'idea quando non si è pronti a sistemarla col proprio pericolo. Ma questo mi sembra un modo di ragionare europeo. Potrà essere uno sbaglio o un luogo comune, ma noi siamo usi a giudicare gli americani troppo pratici e positivi per abbandonarsi a preoccupazioni sentimentali o scrupoli ideologici. Forse Roosevelt si è lasciato trasportare troppo dall'impeto della sua indignazione generosa. Forse l'America sconterà duramente la sua prima follia altruistica. È certo però che anch'essa ormai si è impegnata a fondo. A ogni modo, staremo a vedere. Anche lei, come tutti, si è gettata in campo per manifestare chiaramente se stessa in questa guerra rivelatrice. Vediamo che cosa sarà capace di fare.